non certo positivo per le compagnie, si vada incontro ad un aumento delle tariffe prossimamente a carico appunto dei consumatori. Questo magari è un tema che affronteremo, ma in realtà ci interessa molto questo aspetto di queste ombre nel settore danni di cui ieri ha parlato Giannini, perché oggi a Roma c'è un convegno con una presenza appunto molto nutrita di esperti del settore, ma non solo, sul tema della trasparenza possibile nell'RC auto. Ad organizzarlo è il trittico delle associazioni dei sindacati che racchiudono la categoria degli agenti di assicurazione. Noi questa mattina abbiamo con noi il presidente dello SNA, il Sindacato Nazionale Agente di Assicurazione, Giovanni Metti. Presidente Metti, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, prima di tutto adesso presenteremo il risultato dell'indagine che avete condotto sulle 72 compagnie presenti in Italia, indagine che rileva che i contratti dell'RC auto non sono realmente confrontabili sulla base del costo, per cui bisogna invitare i consumatori ad una maggiore attenzione. Ma prima di tutto mi chiedo come mai avete voluto, come dire, alzare il velo su quelle che avete definito le trappole contrattuali presenti nelle tante offerte RC auto. Io immaginavo che un convegno del genere lo potessero fare le associazioni dei consumatori, non gli agenti che vendono le polizze. Presidente, iniziativa originale da parte vostra. Sì, è un'iniziativa sicuramente originale, ma soprattutto è un'iniziativa che vuole essere vicino ai nostri assicurati per tutelarli, in fondo con la garanzia delle RC auto. Il problema che noi vogliamo sollevare questo: oggi si fa un confronto anche attraverso pubblicità intertelefoniche eccetera, che viene fatto soltanto sui prezzi. Non è possibile su un servizio assicurativo, fra l'altro obbligatorio, che si possa fare una considerazione soltanto sul prezzo. Quindi noi vogliamo mettere in evidenza che il prezzo, pur essendo una parte determinante del contratto, non è la variabile più importante al fine di determinare se io ho una copertura assicurativa adeguata alle mie esigenze o uno standard minimo che mi permette di viaggiare con tranquillità. Quindi il tema quindi è che esatto. Comunque, sì. Ecco perché noi lo facciamo. Comunque questo percorso è stato condiviso sempre anche insieme con i consumatori. Lo studio l'abbiamo fatto noi come associazioni, abbiamo invitato oggi i consumatori che hanno per esempio condiviso questo e altre anche iniziative che noi abbiamo portato avanti, come plurimandate, la non polinalità delle polizze, e quindi noi siamo sempre dalla parte del consumatore, perché in realtà noi dobbiamo tutelare il nostro cliente per i rischi che corre con una polizza che non dia le garanzie sufficienti. Adesso ne parleremo, peraltro quello che chiedete è che ci sia un ampliamento delle condizioni generali minime in tutte le polizze. Vedremo anche poi, tra l'altro, se l'ANIA, l'associazione di settore, darà la sua disponibilità ad un discorso di questo tipo. Il tema è che c'è una rosa di situazioni possibili, eventi sfavorevoli che si possono verificare nella nostra vita di conducenti di auto e per i quali non sappiamo se abbiamo copertura o meno. Prima di questo però, Presidente, le vorrei chiedere una così considerazione sulla questione delle tariffe, perché ci hanno detto più volte nel corso degli ultimi mesi che, dato che il conto economico delle compagnie non torna perché la raccolta quest'anno rispetto alle prestazioni erogate praticamente presenta un bilancio sfavorevole alla raccolta, nel senso che chiaramente la crisi si è fatta sentire sul settore in questa maniera, l'ho detta in maniera un po' banale, però in sostanza il discorso è questo, sembra che a causa di questo le compagnie dovranno ritoccare le tariffe. Lei di che avviso è? Le vorrei chiedere un'impressione su questo. Guardi, il problema delle tariffe è un problema che noi affrontiamo da sempre, perché purtroppo la tariffa delle polizze auto, il premio che si paga delle polizze auto è in funzione dei sinistri che si pagano, quindi sono due cose che non sono svincolate una dall'altra. In linea teorica, evidentemente, se aumentano i sinistri e aumentano i risarcimenti, è evidente che ci debba essere anche un ritocco nei premi di assicurazione. Però in linea pratica io penso che ci siano delle possibilità di intervento ai fini di limitare o comunque di essere più efficaci nelle liquidazioni, che potrebbero far diminuire notevolmente i costi e quindi non fare valida l'equazione aumento dei costi e l'unica soluzione possibile è quella dell'aumento dei premi. Non credo che sia solo questo il percorso che si possa fare. Quindi, insomma, bisogna fare percorsi virtuosi che ci permettono di pagare il giusto, ovviamente, a tutti i danneggiati, ma che questo costo sia inferiore a quello che si paga oggi in termini di risparmi, ma non certamente per penalizzare colui che deve avere il giusto risarcimento, ma questo secondo noi è possibile, quindi risparmiare. Per esempio, un tentativo, quello dell'indennizzo diretto, è un tentativo che va comunque portata avanti e cercare di riuscire a farlo funzionare nel modo giusto, perché è uno dei metodi per cui si potrebbe arrivare a una diminuzione dei costi e quindi anche al contenimento dei prezzi. Potrebbe essere questo dunque il dibattito di quest'anno che interesserà il settore. Allora, andiamo alla vostra indagine, come dicevo prima, sulle 72 compagnie presenti in Italia. Qual è la sfera delle situazioni, Presidente, che dobbiamo prendere in considerazione quando sottoscriviamo una assicurazione per la nostra auto? E molto spesso pensiamo di essere coperti su tutto, tutelati su tutto, invece ci sono degli eventi che ci possono capitare e che ci fanno scoprire che invece la nostra polizza non ci copre su questi eventi. Ci fa qualche esempio? Così almeno andiamo a controllare il nostro contratto. Allora, l'esempio che diciamo che è più frequente, che oggi è quello che anche riscontriamo, che spesso viene purtroppo come causa di incidente, è quello della guida in stato di ebbrezza. Noi sappiamo tutti oggi che per avere una sanzione e quindi essere alla guida in stato di ebbrezza ci vuole molto poco da un punto di vista del tasso alcolico. Mi sembra che sia un modo che l'Italia si è adeguata alle altre nazioni europee, che è giusto che sia così, però è altrettanto vero che è abbastanza facile poter superare questa soglia per cui sei fuori e quindi non c'è la possibilità di essere, nel caso in cui non ci sia specificatamente prevista nel contratto di assicurazione che copre anche questo tipo di rischio, si corre molto facilmente il rischio che causando un danno non si ha il diritto al risarcimento perché ha ricevuto il danno, ma poi dalla parte della compagnia può esserci la rivalsa nei confronti di chi ha procurato il danno e quindi con un danno economico elevatissimo, può essere anche, perché può essere la banalità di un parafango, ma possono essere anche delle situazioni dove la casualità dell'incidente è a mio carico e magari ci sono anche dei morti o più persone ferite e quindi il danno può essere elevatissimo. Quindi, per esempio, la copertura della guida in stato di ebbrezza è una delle cose più importanti che noi dobbiamo sottoporre all'attenzione del consumatore, perché è troppo facile uscire, anche naturalmente senza avere dei tassi alcolici molto elevati, però uscire dalla copertura assicurativa. Ci può essere anche un caso più banale, quello di essersi dimenticati di rinnovare la patente, andiamo in giro per qualche settimana con il documento scaduto e anche qua scopriamo che magari ci può capitare un danno piccolo. Ecco. Certo, anche qua si può scoprire che non avendo rinnovato la patente, in realtà la guida è non con una patente valida e quindi potresti correre il rischio di non di subire una rivalsa, perché purtroppo la clausola contrattuale prevede che ci debba essere naturalmente la patente di guida valida, come altri casi anche in aree private. Quindi ci sono diverse situazioni che noi vogliamo porre all'attenzione dei consumatori e quindi creare uno standard minimo che possa essere come presa una polizza di base che possa andare bene per tutti i conducenti di autovetture e che quindi possono viaggiare tranquilli. Chiarissimo. Molti non sanno di queste cose, ecco, esatto, perché noi vogliamo informarli. Benissimo, Presidente. Allora, le auguro una buona giornata. Il convegno si svolgerà nel pomeriggio a Roma e per cui insomma l'invito è di guardare bene il contratto di assicurazione, non fare una valutazione solo ed esclusivamente sulla base del costo del prezzo, che è molto importante, ma anche di tutte le garanzie e i servizi erogati dalla compagnia. E ascoltare gli agenti di assicurazione quando noi vi diciamo queste cose. La ringrazio, Presidente. Devo salutarla perché non ho più tempo, devo ridare la linea ad Alessandro Milan, ma il messaggio è stato molto chiaro. Buona giornata, Alessandro. Eccoci alle 12. Parliamo di risparmio per i più piccoli, di tutti i conti correnti dedicati agli under 18 e anche alle polizze assicurative appunto per questo ambito. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: la Camera dice sì al legittimo impedimento che offre a Premier e Ministri la possibilità di rinviare i processi che li riguardano per 18 mesi in caso di concomitanti impegni istituzionali. Ora la legge passa al Senato. E nel Consiglio dei Ministri di oggi si approva la riforma dei licei, delle scuole. Ma si deve decidere anche sulla data del voto a Bologna. Infine, Berlusconi dovrebbe proporre la nomina di nuovi sottosegretari, tra i quali Daniela Santanchè. Il Tribunale di Milano ha condannato a un risarcimento di 450.000 euro i genitori di alcuni adolescenti che tra il 2001 e il 2003 violentarono una dodicenne. La decisione del Tribunale è motivata dal fatto che quei genitori non hanno dato un'educazione dei sentimenti e delle emozioni ai figli che hanno commesso poi gli abusi. Infine, per il calcio, Inter-Fiorentina 1-0 nell'andata della prima semifinale di Coppa Italia, con una nuova lite tra Balotelli sostituito e l'allenatore Mourinho. Stasera l'andata dell'altra semifinale, Roma-Udinese. Allora, alle 8:34 minuti parliamo nel nostro sondaggio di oggi di quello che ha combinato Morgan e la sua esclusione da Sanremo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Io ce l'ho qui l'intervista incriminata. Max esce oggi in edicola. Morgan dichiara a Max: ho scoperto da giovane di avere un quoziente intellettivo più alto della media. Vantaggi della scoperta? Prima di raggiungere il livello degli altri, posso spararmi tutte le droghe che voglio. Posso bruciarmi il cervello a cuor leggero. La droga apre i sensi a chi li ha già sviluppati. Io non uso la cocaina per lo sballo. A me lo sballo non interessa. La uso come antidepressivo. Avercene di antidepressivi come la cocaina fa bene. Io la fumo in basi perché non ho voglia di tirar su l'intonaco dalle narici. Ma ne faccio me ne faccio meno, ma almeno è pura. Dichiarazioni sicuramente shock. Morgan escluso da Sanremo. Vi chiediamo, è giusta questa esclusione? Dovete votare su radio24.it. Voglio iniziare, voglio salutare Mara Maionchi, che ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Mara Maionchi è la casa discografica Non ho l'età, ma anche noi la conosciamo, insomma, come compagna di Morgan X Factor tra i giudici, no? Brutta storia, sì. Questa Maionchi, brutta. Beh, brutta dichiarazione, direi. Brutta storia, perché mi sembra una dichiarazione un po' delirante, nel senso che al di là della quoziente intelligente superiore a tutti noi, e su questo devo dire che è possibile. Morgan è indubbiamente una ragazza intelligente, però un'intelligenza che in questo caso, questa dichiarazione offusca un attimo, perché vuol dire appunto che la cocaina fa molto male, perché lui delira. Dice cose che non sono sufficienti, sono un po' anche, se non fosse così grave l'intenzione nei confronti di questa droga, sarebbero anche un po' ridicole. Voglio dire, Superman dell'intelligenza non è vero, lui è forte e colto, ha un eloquio piacevole, non avevo letto questa cosa. Hanno fatto bene a Sanremo a escluderlo, secondo lei? Ma mi sembra la cosa, devo essere sincera, sì, è minore, nel senso che non c'entra. No, credo che Morgan, al quale voglio bene, abbia bisogno di aiuto, evidentemente, se questo signore, che credo trattasi di signor Panizza, sì, il giornalista, ecco, abbia forse travisato certi atteggiamenti di Morgan, perché veramente è scritto in un modo così, per cui forse Panizza, che è un ragazzo un po' esagerato e ha bisognoso di notorietà, credo che abbia veramente, si sono messi in due a fare il gioco un po' esagerato. C'è colpa del giornalista, lei dice. Ma io non dico che è colpa del giornalista, dico che certe volte le unioni fanno la forza, insomma. Senta, ma tra l'altro in questa intervista dice anche l'accusano di essersi presentato a volte strafatto agli studi Rai. Lui dice, beh, guardi, io sono trasparente, quindi la gente si approfitta e parla spesso della mia privacy non rispettandola. Ma lei... Ma io devo dire che non ho mai visto Morgan usare nessuna sostanza davanti a me, questo è certo. Per cui dire queste cose qui, no, magari io non so cosa intende una persona o qualcuno di strafatto. Lui certe volte è un po' sopra le righe, racconta, ma questo anche preso dall'enfasi del discorso, della storia che racconta, per cui io non ho la certezza che certi atteggiamenti di Morgan siano dovuti a questa cosa che dice lui. Credo che la dichiarazione della gola l'ha fatta lui, e per cui è chiaro che devo, se tutto ciò che è stato raccontato è vero, devo dire sono molto sorpresa. Qualche volta era un po' noioso, un po' lungo, un po' prolisso, ma certe volte esagerato, ma anch'io sono esagerata e non assumo nessuna droga, e anzi sono fortemente contraria all'uso di droghe. Allora, intanto la sta ascoltando, voglio salutare l'onorevole Alessandra Mussolini. Buongiorno, onorevole Mussolini. Oggi, devo dire, onorevole Mussolini, c'è un Morgan che ha fatto un'intervista anche al Quotidiano Nazionale, dice sono disperato, ho sbagliato, ma non è che non ho detto quelle cose, ma il contesto è travisato, adesso sono terrorizzato di perdere mia figlia, perché insomma ha una figlia di 9 anni. Lei è stata molto decisa a dire, a Sanremo adesso se lo scorda, no? Per lei Morgan, sostanzialmente. Ma io credo questo, mi hanno fatto molto piacere le affermazioni che ha fatto la Maionchi di buonsenso, anche perché nella vicenda Morgan, senza ipocrisie voglio dire, è come lui ha detto che prende questa droga, cioè dando un messaggio devastante per i giovani, perché su questo punto noi dobbiamo essere duri, soprattutto chi fa le leggi e chi deve dare anche dei segnali ben precisi. Cioè noi tutti, dopo che c'è stata la polemica, i parlamentari, la droga, ci siamo tutti sottoposti al test antidoping. Peraltro io ho sempre avuto una posizione nei confronti della droga e dei giovani molto netta. Morgan ha fatto delle dichiarazioni devastanti, perché ha detto la droga fa bene, non solo come antidepressivo, io la uso proprio quotidianamente e frequentemente. Peraltro ieri ho visto un servizio che è andato in onda in televisione dove lui ribadiva, proprio senza neanche un minimo così di tentennamento, proprio l'uso di droga, di cocaina, come fosse una cosa regolare, come bere l'acqua. Allora, come quando tu educhi un figlio, i no servono, cioè non è che puoi dire sempre sì. Allora lui ha avuto questo atteggiamento sfacciato, quasi a ribaltare quelli che sono i valori. Vuoi andare a Sanremo? No. Perché Sanremo costituisce anche un fatto, a mio modo di vedere, siamo tutti affezionati a Sanremo, a una canzone pulita, al talento, a persone che si impegnano, e ce ne sono tanti. A me non è piaciuta neanche questa finta, a mio modo di vedere, revisione e pentimento subitaneo, come sì, quando uno commette un'azione delittuosa e poi dice no, ma sono pentito, scrivo la lettera ai genitori della vittima. Però mi scusi, onorevole Mussolini, qualcuno fa notare anche un po', insomma, purtroppo il binomio, il binomio droga musica nella storia, insomma. Ma non è vero. Beh, ma insomma, ci sono tanti cantanti che sono giovani. Ma certo, ma che dobbiamo che fare, non so, Jimi Hendrix lo cancelliamo. Ma no, Jim Morrison lo buttiamo via, non so, e faccio dei nomi anche stranieri, persone che sono scomparse. Ma parliamo dei nomi stranieri, parliamo dell'Italia. Mi interessa la questione italiana, del talento dei tanti giovani, di donne, di ragazzi che si impegnano, che magari non hanno le possibilità, pur bravi, di andare a Sanremo, e quindi ce ne sono tantissimi. Io ho visto anche un passaggio del ministro Meloni, ha detto faccio il tifo per te, per il pentimento, certamente tutti noi vogliamo, ma realmente che Morgan possa fare, ma in modo convinto, no? Perché adesso tra due giorni arriva a Sanremo, perché a Sanremo non ci deve andare più, non è che poi più. Adesso lui fa finta di pentirsi, vada a Sanremo e magari vince pure, perché non va bene. Perché noi dobbiamo dare il messaggio netto, ti droghi, dici che fa pure bene, e a Sanremo non ci vai. La sua posizione è molto chiara, è molto chiara, onorevole Mussolini. Insieme a Mara Maionchi ci ha raggiunto anche, la saluto, l'onorevole eurodeputata, ma anche insomma cantante importante, Iva Zanicchi. Buongiorno. Zanicchi. Buongiorno. Senta, lei, partiamo proprio da qui, da Sanremo sì, Sanremo no, cioè prendiamola dalla domanda del nostro sondaggio. Lei in che categoria si ascrive, a quella che dice ma basta con questa ipocrisia, perché dovrebbe essere escluso da Sanremo, oppure deve essere escluso? No, io non mi metterei in nessuna categoria. Io quando ho letto non ho letto l'intervista, ma ho saputo di queste dichiarazioni di Morgan, mi sono dispiaciuta tantissimo. Io sono una cantante innanzitutto, faccio, nonostante sia anche europarlamentare, faccio la cantante da 45 anni, ho avuto la fortuna di non ricorrere mai a nessuna droga. Quando parlano degli spinelli che li fumano tutti, io non ho mai fumato manco uno, grazie a Dio, grazie alla mia forza. Capisco, e dico una cosa forse grave, capisco che un giovane, un cantante o una cantante debole possa ricorrere alla droga, perché il nostro è un mestiere tremendo. Quando ti devi presentare davanti, sei distrutto, sei stanco, ti devi presentare davanti a migliaia di persone, se sei debole puoi incappare anche nella droga, che è una cosa deleteria da condannare in tutti i modi. Per quanto riguarda Morgan, io non lo conosco come artista, l'ho seguito a X Factor, è un ragazzo vero di talento, secondo me. Certo, ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni, forse ingenuamente, dico anche di più, perché penso che sia stato in un momento di debolezza e voleva fare un'intervista shock, ce l'ha fatta, sì, purtroppo, sì, su un giornale importante, voleva scioccare e non riflettendo la gravità delle cose, delle parole che ha detto, perché tu non puoi, visto che sei un personaggio, che sei vicino ai giovani, che hai il mondo in questo momento dei giovani che ti ascoltano, che bevono le tue parole, perché io lo vedevo X Factor, era molto seguito, beh allora devi stare attento, non puoi mandare, inviare un messaggio così grave, così forte ai ragazzi che ti però seguono. Su Sanremo, visto che magari lei ha ancora il dente un po' avvelenato, l'anno scorso lei a Sanremo si adombrò molto, ma è una vicenda sua passata, ma no, immagino, perché... ma era tutt'altra cosa, che vuoi, vuoi, cosa vuoi che abbia il dente avvelenato? Io ho il dente avvelenato non tanto con Benigni, che in nome della satira può dire qualsiasi infamia in Italia, io ce l'ho su ancora con gli organizzatori che hanno permesso questo, con Paolo Bonotti, magari che era sul palco e non è intervenuto né prima né durante né dopo, e degli organizzatori che hanno tolto Morgan, che è il problema di Morgan. No, io sinceramente non vorrei essere nei panni degli organizzatori, impedire a Morgan di andare a Sanremo. Dice il pentimento, sì, vabbè, ormai questo Sanremo io lo lascerei a casa, sinceramente, nel senso che forse lui non ha neanche bisogno ora di andare a Sanremo. Con che spirito ci va? In che modo ci va? Se fossi lui, io deciderei da solo sarebbe di rimanere lui, a casa. Sarebbe lui a poi dire... se deve fare per lui, per sua figlia, come ha detto, per la musica, dimostrare davvero che è pentito, quello sono affari suoi poi. No, se uno sì. si vuole impiccare, si vuole drogare, vuole morire, si vuole buttare giù dal quinto piano, beh, io non glielo impedisco perché è la libertà assoluta, ognuno è libero e padrone di fare ciò che vuole, però se lui è pentito, io mi auguro perché per lui, per il bene, perché è un vero artista, perché è una persona che stimo, perché in fondo... Se lui ricorre alla droga perché è debole, perché è fragile, per cui va anche aiutato. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Giusto o no l'esclusione di Morgan da Sanremo dopo che ha detto faccio uso di droga? Il 65% di voi per ora sempre dice di sì. Vediamo se un paio di ascoltatori vogliono andare a Sarno da Alessandro. Buongiorno. Che pensa? Sì, buongiorno, e volevo insomma dire la mia su questa situazione. Ho un bambino di 8 anni, ho 43 anni e faccio di tutto per cercare di dargli dei buoni insegnamenti e sinceramente vedere un personaggio pubblico come lui che si esprime in una certa determinata maniera e fa capire, perché chiaramente ho parlato anche con dei ragazzi molto giovani, sì, che il suo messaggio è stato recepito come dice, guarda, hai visto che poi in fondo la droga non è proprio quello che si dice così male, nel senso che può anche aiutare. Allora questa è una cosa sbagliatissima da condannare assolutamente. E questo siamo d'accordo. Su Sanremo che dice? Cioè su Sanremo dico che non solo fanno benissimo se non lo fanno cantare, ma io se fossi nei panni di qualcuno dei vertici Rai, sinceramente lo farei anche andare immediatamente, cioè non gli darei più neanche la possibilità di entrare in una trasmissione per i giovani. Zero, basta, zero, bandito, basta. Cancellato, via, Morgan. Cancellato. No, voglio dire, io dico però, insomma, allora la discografia di Jim Morrison, la discografia di Jimi Hendrix, la cancelliamo pure quella, insomma, giusto per essere conseguenziale alla sua proposta. Remigio da Ala, in provincia di Trento. Remigio? Sì, buongiorno. Che dice buongiorno. Lei? No, sono assolutamente contrario all'esclusione di Sanremo, ma più che altro per usare questa sua dichiarazione forte e il suo eventuale pentimento, proprio per usarlo per far capire ai giovani che è sbagliato, dire, poi basta l'ipocrisia, escluderlo da Sanremo perché l'ha detto, dire, quanta gente si droga e comunque continua a andare in televisione e a manifestazione canore. Lei ha usato la parola dalla quale volevo partire, Mara Maionchi, ipocrisia, è la parola che si è più sentita dire da chi dice no, hanno sbagliato a Sanremo perché è ipocrita escluderlo. C'è dell'ipocrisia secondo lei, Mara Maionchi? Lei che il mondo della musica, della discografia lo conosce da decenni, insomma. Ma lo conosco da tanti anni, certamente c'è sicuramente non sarà l'unico, non lo è stato Jimi Hendrix, lei continua a nominare Hendrix e Doors e forse tanti altri. Il problema drammatico di Morgan è stato il fatto di dire che fa bene e cura la depressione. Questo è un fatto drammatico. Sul Sanremo devo dire che io non trovo poi questa grande, perché insomma Sanremo è una cosa importante, però insomma, ragazzi, poi non è che succede niente se lui non lo fa un anno, lo fa l'anno prossimo. L'importante è che si curi assolutamente. Io credo che questa sua intervista sia addirittura un messaggio di ricerca di aiuto, perché uno che dice quelle cose lì, e lui è un uomo intelligente, vuol dire che è veramente in uno stato di confusione e di assoluto bisogno nei confronti della società e di noi. Lui ha detto sciocchezze in mani, ha detto una cosa che non è vera. Secondo me va aiutato, perché ha bisogno di essere aiutato per uscire da una situazione che evidentemente è drammatica. Sul fatto di Sanremo, io credo che è indubbio riconoscere che nel mondo della canzone nazionale e internazionale ci sono questi casi, però attenzione a dichiararli così, bisogna cercare di curarsi e di guarirsi. Alcuni, proprio i Doors, Jim Morrison e gli altri, non ce l'hanno fatta, e questa è una testimonianza della loro tragica vita. Per cui se loro fossero stati artisti che non cadevano, ahimè, per fragilità, per qualsiasi situazione, in una situazione del genere, sono proprio la dimostrazione che la droga fa male, altrimenti, come tanti altri artisti, sarebbero arrivati in età matura continuando ad esercitare la loro arte. Per cui io credo che il problema di Sanremo, adesso questo decideranno le persone che devono, io non sono una persona istituzionale, non è importante quanto l'aiuto che bisogna dare a questo ragazzo, che dicendo queste cose ci fa ampiamente capire di avere necessità di un aiuto per cercare di recuperare gli equilibri della sua vita. Io, onorevole Mussolini, vorrei fare una provocazione: se non va a Sanremo, perché deve andare, che ne so, stasera Porta a Porta, poi pare che anche andrà quelli che è il calcio, l'arena di Massimo Giletti lo sta cercando, cioè insomma ha fatto questa dichiarazione, adesso non andrà a Sanremo ma avrà un palcoscenico per esprimersi. Ma perché questo chiaramente nessuno glielo può impedire. Diciamo, e perché che Sanremo sì, cioè che invece a Sanremo sì. No, mi scusi. Cioè, invece a Sanremo viene impedito. Dopo aver detto, perché io concordo appieno con quanto ha detto la Maionchi, cioè vai a Sanremo dopo che dici che la droga fa bene? Il Sanremo è un momento, diciamo, per i cantanti di vetrina, di esporre il proprio talento, il proprio valore, ma della musica, di combattere però con gli altri. Ma la musica è tutto, guardi che la musica non è che tu puoi prescindere la musica da chi sei, cioè tu nella musica esprimi te stesso, i valori che tu hai dentro, il credere in te stesso. Chi si droga in questo modo è che lo dice, e non solo è fragile ma non crede neanche in se stesso. Ma la cosa più grave è il messaggio che tu dai ai giovani, cioè che si deve fare perché sei un figo se lo fai. Allora, dato che Sanremo si gioca tutto, la vetrina, andare in un contesto anche internazionale, è una punizione. A Sanremo non vai, non è che adesso fai il pentito. A me non mi interessa se va Porta a Porta, non so quello che dirà. Però è Sanremo, è la non vetrina. Possiamo... perché... Sanremo è la punizione. Voi ti sei drogato, dici che fa bene, a Sanremo non vai. Fai finta di pentirti, non vai. Poi giustamente tutti siamo, perché lui faccia in modo convinto e credibile, un percorso di ricerca di se stesso, cioè perché tu sei arrivato a questo punto, sono cose sue. Però quando lei dice e fa giustamente gli esempi, no, Jimi Hendrix, quell'altro, Whitney Houston è diventata un mostro sotto la droga, stava morendo, cioè c'è l'annientamento di se stessa, ed è ritornata al successo recuperando quello che aveva perso, che ha distrutto la droga, ed è tornato al successo. Quindi ci sono anche questi esempi, gli altri sono morti, cioè vogliamo dire non dobbiamo mettere dei paletti, che va tutto bene, che l'artista lo può fare e gli altri no. Non è vero, perché il pilota di un aereo che si droga con la cocaina e dice che fa bene, io su quell'aereo non ci salgo, e lui dovrebbe andare in galera anziché pilotare un aereo. Questa è la società nella quale noi forse dovremmo cominciare a mettere dei paletti, perché ognuno di noi ha dei figli. E quando io ieri su una televisione televisione che è privata, ho visto l'intervista di Morgan, avevo vicino Romano mio figlio che ha 7 anni, ho spento, perché ha detto con leggerezza delle cose devastanti, a me non vanno bene, quindi a Sanremo non va, non va molto bene. Bene, ci fermiamo qui ringraziando Mara Maionchi, l'onorevole Alessandra Mussolini e l'eurodeputato onorevole Iva Zanicchi, grazie per essere state con noi, continuate a votare Morgan a Sanremo, giusto o no? Il 66%, un punto percentuale nel frattempo aumentato, continua a dire sì, è giusto che sia escluso da Sanremo. Do la linea a Oscar Giannino, ringraziando anche Alessandro Marco Tulli che ci è stato prestato da Giannino e che rimane con Oscar Giannino, straordinario oggi in redazione, così come Peter Bescapè, grazie in regia. A domattina.